140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Studi di Radio 24, Milano. Il rap, il pop, insomma, le belle canzoni. Torna con il quarto album una delle più grandi penne italiane, Coez. Si chiama Faccio un casino. È un titolo, spero, di buon auspicio. Chiaramente intendo sempre un casino positivo, cioè faccio un macello, adesso esco col disco, faccio un casino. Era un po' così per... A parte, vabbè, c'è appunto uno dei miei pezzi, forse il mio pezzo preferito dell'album, si chiama così e mi sembrava che potesse essere il titolo per vari aspetti, ecco. C'è una foto mia da bimbo in copertina, sei tu? Sono io, sì, sono io che, con mia madre che mi tiene, io che faccio, che cerco di fare un casino a tutti i costi. Cioè, è come se avessi una sigaretta in bocca e il ciuccio legato al collo. Sì, è una sigaretta di cioccolato. Beh, sigaretta e ciuccio è numero uno, già da piccolo. Sì. E no, diciamo, secondo me questo disco qua è un sunto un po' di tutto il mio percorso e allo stesso tempo ha qualche canzone dentro che va anche oltre quelle, insomma, che già avevo fatto, cioè anche a livello di apertura, credo, spero, insomma. Quarto album? Il mio quarto album, sì. Qualche anno fa la musica indie e anche il rap erano un po' la nuova frontiera. Adesso sembrano quasi il mainstream. Ma io penso che sia una buona... Penso che comunque tutte queste varie sfumature, no? Poi vabbè, vengono chiamate indie, però in realtà non sono troppo d'accordo io con la denominazione, perché fondamentalmente è come se, che ne so, se Lucio Dalla usciva oggi, magari per non accostarlo magari a un Tiziano Ferro o a un Mengoni, l'avrebbero classificato forse come indie, non certo, so. Certo, c'è un pop che però non è proprio il pop. Sì, non è quello proprio super colorato, sì, super, sì. Non so come dire, non voglio usare termini insomma che diano fastidio, però magari non è così patinato, c'è sempre comunque una sfumatura dell'artista un po' più accentuata, quindi magari per questo lo chiamano indie, per diversificarlo, però fondamentalmente secondo me se il pop non richiamasse cose così brutte, no? Potrebbe chiamarsi tranquillamente pop, secondo me. Ah, io sono invece un'alfiera del pop, adoro il pop proprio come concetto, sì, quindi sì, no, secondo me pop andrebbe benissimo. Ma anche io, no, io preferisco, cioè sicuramente la cosa che mi descrive meglio forse è quella, poi... Però quando tu hai cominciato ad abbracciare il pop con più decisione, qualcuno ha urlato al tradimento, per te. Sì, ha voglia, ma ancora qualcuno ogni tanto lo fa, ancora? Solo che ormai è talmente da solo nel nulla che non lo sente più nessuno. In fondo cosa avrei dovuto fare? Boh, forse lasciare un biglietto e fare la figura dello scemo. Era meglio se non ti conoscevo e tu a giocare sei brava davvero, ma non con me. Dici di sì mentre te ne vai, un po' di te rimane qui anche se non vuoi. Amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino, amami o faccio un casino. Oh, dimmi cos'è che vuoi da me, dimmi cos'è che... Faccio un casino, secondo me è uno dei miei album forse un po' più leggeri, nel senso comunque le canzoni, ci sono le canzoni d'amore che per una volta magari non so manco così strappalacrime. Ah, quindi non devo usarle quando sto... Non lo so, cioè nel senso se lo avviciniamo a Non erano fiori, magari qua appunto okay. Che ne so, tipo la musica non c'è, non è come La strada è mia, ecco, insomma non c'è quel dolore proprio dentro la canzone. poi non dico che non fa piangere. Io sorrido perché io mi sono fatta dei pianti, ragazzi. No, certo. Niente che non va, ho fatto dei pianti, settimane di pianti ho fatto. Che poi è incredibile, perché anche mentre scrivevo testi sempre un po' pesanti, perché c'avevo ancora un po' quella roba da spurgare, però cercavo comunque di... Con Ceri abbiamo cercato di comunque fare dei pezzi molto up, no? Appunto per farla passare in sordina questo malessere. Qua secondo me, ad esempio, forse il pezzo che fa un po' più piangere è Io Mamma, che comunque è una canzone bella, io l'ho definita la mia prima canzone d'amore, insomma è un pezzo per mia madre, quindi insomma non c'è tutto questo struggle, come spesso hanno definito anche... Certo, beh, canzone per la mamma è un momento importante nella sì, carriera di ogni autore. È il mio... Penso bene, fai una, no? Però deve essere lei, giustamente. È uscito il vinile, che è bellissimo. Io ce l'ho qua, non si vede alla radio, ma io ce l'ho qua. Primo posto della classifica dei vinili, che effetto ti ha fatto? Beh, è stato divertente, nel senso... Per una volta sono stato primo in qualcosa. No, ma che scherzi. No, è stato bello. Più che altro non me l'aspettavo. Comunque anche nei dischi, insomma, nei dischi pure si è piazzato bene. Sì, mi pare che sia entrato subito al terzo posto. Sì, al terzo posto. Ragazzi. E anche, diciamo, su... cioè, stiamo avendo, insomma, le nostre piccole vittorie già. E comunque, ad esempio, come il mio primo disco, Non erano fiori, comunque quando è uscito non è che avevano capito tutti quello che stavo facendo. Adesso i pezzi hanno tipo 6 milioni di visualizzazioni. Cioè, comunque ai concerti è ancora da stadio continuo, quindi io sono un diesel, capito? Cioè, parto piano, ma tanto arrivo lontanissimo, lo so. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Coez. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.